Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Anita Riotti in redazione e Pietro Lacorte in regia per questa puntata di A Tempo di Sport del sabato, l'ultima, ricordavo prima nel GR, per questa stagione sportiva, quindi per luglio-agosto sostanzialmente, anzi prima della fine di agosto riprendiamo perché ricomincerà il campionato di calcio, però intanto questa è l'ultima della stagione sportiva per l'appunto, mentre rimarranno tutti gli altri appuntamenti per A Tempo di Sport, nessuna vacanza per nessuno, quindi vi faremo compagnia per tutta l'estate. Dunque, ogni giorno dalle 14 alle 15 e la domenica, beh, domani programma completo, 17, 19, 20, 20 e 30 e poi 22, 23 per vivere insieme la finale di Confederation Cup. Dalla domenica successiva, dalle 17 alle 18, saremo qui ogni domenica anche d'estate per parlarvi di sport. Ultima puntata di A Tempo di Sport del sabato, che però è più che una puntata di A Tempo di Sport, è un giro del mondo, vero, come dicevo prima nel giornale radio, perché partiamo dalla Nuova Zelanda, da Christchurch, dove questa mattina ha giocato l'Italia del rugby. Andremo in Inghilterra, dove peraltro Flavia Pennetta è in campo contro Amalie Mauresmo, 5 pari nel primo set, 5 giochi pari tra la Mauresmo e la Pennetta. Poi andremo in Giappone, dove in questi giorni si trova Andrea Zorzi, anche se la nazionale di pallavolo è impegnata nel terzo weekend di World League ad Eindhoven con l'Olanda, partita appena iniziata, 3-3 naturalmente nel primo set. Dal Giappone, qui vi do il tempo per prenotarvi, per mandare i messaggi di congratulazioni, se ne avete voglia, a Valentino Rossi. Andremo ad Assen, dove Valentino ha appunto timbrato il 100° cartellino nel Moto Mondiale, vittoria numero 100, in questo caso per togliersi ogni dubbio, vittoria per distacco si direbbe nel ciclismo. Secondo Lorenzo, terzo staccatissimo Casey Stoner, sono i tre contendenti al titolo mondiale, ma se Valentino guida come oggi sarà difficile portarglielo via dalle dita. Chiuderemo andando in Sudafrica per la vigilia della finale di Confederation Cup, domani Brasile-Stati Uniti, che sembra segnata, sembra scritta, ma chissà, perché insomma sembra un po' la Confederation Cup delle sorprese, anche l'altra sera sfiorata quella dei padroni di casa del Sudafrica su un Brasile per nulla entusiasmante in semifinale. Però come detto partiamo da Christchurch, Nuova Zelanda, Italia All Blacks, Nuova Zelanda Italia, 27-6 il risultato finale, tutto sommato è una sconfitta, come al solito viene purtroppo da dire, però una sconfitta che ci lascia buone sensazioni. Giacomo Bagnasco, buongiorno. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, è proprio così Carlo, questo 27-6 è il secondo miglior punteggio, se vogliamo dire così, il secondo scarto più limitato per l'Italia nei confronti con gli All Blacks. Gli azzurri avevano perso 31-21 ai mondiali del 91, ma era stata un'eccezione. Dagli All Blacks si prendevano tariffe superiori ai 50 punti, ricordo l'avvilente 76-14 di due anni fa nell'ultimo confronto diretto, la partita di Marsiglia. Esordio nei mondiali, ricorderai Carlo, quella scelta molto discussa di non, sì, di non affrontare la H a viso aperto, gli azzurri in un angolo in cerchio mentre gli All Blacks facevano la loro danza. In 5 minuti ci fecero a pezzi. E in 5 minuti ci fecero a pezzi. Non è la miglior Nuova Zelanda quella che è stata affrontata oggi, mancavano uomini come Carter, McCaw, Williams, Oyalo. Però abbiamo sempre detto che la Nuova Zelanda ha un serbatoio tale da non doversi preoccupare troppo, né ci dobbiamo preoccupare noi degli attuali problemi della Nuova Zelanda, anche perché dobbiamo ricordare che ad esempio ci mancavano uomini come Castrogiovanni, Nieto, Masi. Ecco, l'Italia ha giocato una buona partita, veramente una buona partita. Il primo tempo si è concluso sul 13-3, nei primi 20 minuti gli azzurri sono stati quasi sempre nella metà campo avversaria. Questo non voleva dire che il possesso fosse sempre dell'Italia, però voleva dire che con un pressing avanzante creavano tantissime difficoltà agli All Blacks, che hanno segnato un calcio piazzato con McAllister all'ottavo e poi hanno cominciato a prendere le distanze al 23esimo con una meta. Primo errore azzurro, una touche persa, un cross da parte di McAllister che attraversava tutto il campo e la palla che arrivava a Rocco Coco. Questo stava anche a significare che una versione sbiadita degli All Blacks era comunque una squadra in grado di approfittare di qualsiasi errore azzurro, e questo significava anche che gli azzurri errori ne commettevano poco. Sì. Il primo tempo si concludeva sul 13-3 con due calci per parte. Nella ripresa si temeva un crollo fisico dell'Italia, che però non c'è stato. Sono arrivate due mete della Nuova Zelanda con Ross e Whitelock, un calcio di McLean che ha fatto 2 su 4 nei calci, e sono proseguite le sensazioni positive anche per l'attitudine della squadra azzurra, che ha messo in mostra una gran terza linea, che ha placcato tantissimo soprattutto con Mauro Bergamasco, e che comunque ha saputo tenere fino in fondo anche dal punto di vista fisico, ricorrendo a molti cambi, facendo giocare diversi giovani. Direi che questa partita conclusa sul 27-6 comunque ha fatto vedere cose positive, e tutto sommato è la conclusione logica di una tournée in Oceania che è stata la più dura di sempre per il rugby italiano, ma che non ha visto disfatte. Si temevano, certo, scarti dai 50 punti in su, non ci sono stati, né contro l'Australia che ci ha battuti 31-8 e 34-12, né contro la Nuova Zelanda. Sì, non dobbiamo fare i salti di gioia. No, è chiaro, anche perché la serie delle sconfitte si allunga quasi a dismisura, no? E non ci sono grandi chance nell'immediato futuro. Però sono 3 sconfitte, non 3 disfatte. Torniamo a casa con qualche indicazione utile, ad esempio Gower, che mi sembra un innesto interessante, un innesto interessante per il futuro azzurro, no, Giacomo? Sì, senz'altro. Gower ha dimostrato di essere quel mediano di apertura offensivo che l'Italia non aveva, ha dimostrato di esserlo soprattutto potenzialmente, perché ricordiamo che questo giocatore, che pure ha 31 anni, ha un'esperienza molto limitata nel rugby a 15, essendo stato in Australia un asso del rugby a 13, e ancora più limitata nel ruolo di mediano di apertura, tant'è vero che poi oggi si è disimpegnato molto bene anche come primo centro, ma sicuramente è il giocatore che riesce a mettere a volte a rilanciare un'azione, a mettere sul piede avanzante tutti i 3/4, che infatti hanno fatto vedere alcune giocate piuttosto positive, e direi che comunque le buone indicazioni per il futuro sono venute anche da alcuni giovani che sono stati provati, come Favaro in terza linea, come lo stesso Tebaldi, che apparentemente non aveva tantissime opportunità per giocare in questa tournée, invece complice l'infortunio di Cannavosio, ha fatto vedere di essere un giocatore che in prospettiva può crescere e può starci anche a livello internazionale. Quindi questa tournée tanto temuta non è stata inutile, e gli azzurri insomma ne escono non con le ossa rotte. Certo. Volevo anche ricordare, Carlo, visto che hai parlato di giro del mondo e hai detto che questo giro si concluderà col Sudafrica, facciamo una puntatina in Sudafrica anche per il rugby, perché è da poco finita la seconda sfida fra il Sudafrica e i Lions britannici e irlandesi, una partita durissima che si è conclusa sul 28-25 per il Sudafrica, che così ha vinto la serie avendo già vinto il primo incontro 26-21, ci sarà poi il terzo incontro sabato prossimo. Battaglia durissima, si è detto fin troppo dura, ci saranno probabilmente degli interrogativi, e partita risolta con un calcio a tempo scaduto da 58 metri, quindi c'è tutto l'armamentario per un incontro che sarà difficile dimenticare. Sì. Tra l'altro, rimanendo un attimo alla partita di questa mattina dell'Italia, c'è una notizia uscita poco fa e Sergio Parisse è stato citato dal commissioner al termine del test match appunto di stamattina di Christchurch, perché al capitano della nazionale viene contestato, in base all'articolo 10.4 del regolamento, un contatto irregolare con la zona degli occhi della seconda linea neozelandese Isaac Cross al 58esimo di gioco. Domani la sentenza dell'ufficiale giudiziario, dunque Parisse sotto inchiesta per un colpo duro rifilato ad un avversario. Giacomo, questo è un modo di dire che c'è stata la volontarietà di un colpo, una ditata agli occhi. Se ci fosse una condanna, Parisse, condanna sportiva naturalmente, comincerebbe a scontarla non adesso ma dall'inizio della prossima stagione. Certo, certo. Ricordiamo anche sanzioni pesanti come 2 anni fa nel Sei Nazioni che vide Mauro Bergamasco fermato per 13 settimane. Speriamo non sia questo il caso. Non siano queste le conseguenze. Grazie Giacomo, alla prossima. Grazie a voi. Grazie Giacomo Bagnasco. Dunque adesso vogliamo molto rapidamente, senza muoverci di un millimetro dalla sedia, in Inghilterra, da Dario Pupo, Wimbledon, la Moresmo ha appena vinto il primo set con Flavia Pennetta. 1-0 dunque per la francese, è appena iniziato il primo gioco del secondo set. Ciao Dario, buongiorno. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Beh, settimana comunque interessante per, soprattutto per le nostre tenniste, prima settimana di Wimbledon. Ieri meravigliosa Francesca Schiavone. Sì, soprattutto perché comunque non è più in una posizione di classifica tale da dare per scontato che cerchi di arrivare terzo, quarto turno, insomma, ha una francamente buona possibilità in questo torneo, perché a questo punto le avversarie che ha di fronte nella sua parte di tabellone non sono malvagie. Parlo di Francesca Schiavone, che tra l'altro è andata a Wimbledon a giocare senza allenatore, non è più giovanissima, quindi sa come gestire certi momenti, e lo sta facendo nella maniera giusta. Ieri tra l'altro una vittoria direi perentoria, senza avere cali di tensione, addirittura nel secondo set proprio 6-0 dopo che ha vinto al tiebreak il primo sulla Bartoli. L'aspetta un'altra francese che non è neanche scesa in campo con la Zvonareva, perché ha abbandonato il torneo per soliti problemi fisici che ha ultimamente la russa. Con la Razzano si può fare, e non soltanto con lei, perché se si guarda poi a chi l'aspetta poi nel turno successivo, non andiamo troppo oltre, però insomma Vesnina Dementieva, derby russo, ci sono avversari peggiori insomma da incontrare, vedi soprattutto le sorelle Williams, che negli anni 2000 hanno veramente concesso pochissimo alle colleghe del tennis femminile. Per i maschi invece, vabbè, lì non c'è mai da farsi troppe illusioni quando si tratta di tornei dei Grand Slam, anche Seppi ha perso, però insomma non siamo certo competitivi come con le signore. Purtroppo sì, purtroppo è vero che Bolelli è stato fermato da un problema ad una vertebra lombare. Seppi ha sempre questo problema delle partenze quando inizia a giocare, e l'ha fatto per 4 giorni consecutivi a causa dell'oscurità 2 volte, è tornato in campo oggi per giocare contro Andreev. Si pensava potesse giocare meglio sull'erba contro il russo di Spagna, si potrebbe dire, invece Andreev ha dimostrato grande solidità soprattutto negli spostamenti con il dritto alla sinistra, è stato micidiale. Seppi questa volta aveva tenuto il servizio sul 5 pari nel quarto set, era sotto però 2-1, e nel tiebreak ha ceduto contro un avversario che onestamente si è dimostrato più forte. Peccato che ci eravamo illusi di poter portare anche un rappresentante in campo maschile nella seconda settimana, perché è sempre quello il nostro obiettivo italiano onestamente. Oggi da aggiungere soltanto il fatto che c'è da registrare l'uscita della Jankovic, che tra l'altro è svenuta anche in campo, è stata male, è stata soccorsa, alla fine ha finito la partita, però non ce l'ha fatta contro la giovane avversaria americana Odin. Questa forse è la nota più importante da segnalare della giornata odierna. Speriamo che la Pennetta riesca a rimettere insomma in sesto la partita, perché ormai le sfide con la Moresmo sono piuttosto accese dopo quello che è successo in Fed Cup in questa stagione, con anche un gesto non proprio come dire da sponsorizzare della Pennetta all'arbitro, al giudice di sedia. Sì. Però insomma c'è veramente qualcosa che va oltre la sfida mera e propria del torneo, c'è quasi un qualcosa di personale tra le due, tra Moresmo e Pennetta. Una specie di derby. Intanto è 1-0 per Moresmo, 1-0 come set e 1-0 come giochi, anzi adesso 1-1 perché Flavia Pennetta tiene il servizio nel secondo game del secondo set. Per chiudere, Dario, tabellone maschile per quanto riguarda i big. Sorpresa della settimana, il vecchio Leighton Hewitt, uscito di scena del Potro che era numero 5. C'è chi dice che il tabellone forse andava ridisegnato dopo l'uscita, dopo il forfait di Nadal, perché così è un po' sbilanciato. Effettivamente lo è. È vero anche che l'avversario più credibile di Federer è dall'altra parte del tabellone, ed è Murray. Djokovic sembra trovare piano piano il modo giusto di affrontare il torneo, francamente, però forse non è lui l'uomo più pericoloso dalla parte di Federer. Bisogna vedere cosa succederà con Söderling, perché Söderling comunque adesso ha messo da parte l'esperienza della finale, lui sapeva anche di essere in un contesto con un uomo che aveva una missione, Federer vincere Roland Garros, insomma non c'era niente che poteva fermarlo in quella finale. Io penso che Federer avrà qualche problema da lunedì in avanti, però penso anche che tutti quanti, soprattutto a Londra, vogliono la finale tra Murray e Federer, e poi se Murray meriterà di vincere il torneo, insomma anche lui scriverà una pagina di storia, perché 73 anni che non vince un inglese in casa, non sono pochi. Sì, non sono pochi, poi Murray comunque è un tennista davvero interessante, a meno di sorprese dovrebbe essere questa la finale, anche perché Wimbledon è il torneo che più di ogni altro, con quella superficie che a me piace da morire, è quello che premia il talento vero. Grazie Dario Pupo, alla prossima. Grazie a te. Ciao Dario Pupo. Dunque adesso continuiamo il nostro viaggio da Nuova Zelanda a Londra all'erba di Wimbledon. Adesso facciamo un salto in Giappone per andare a scovare il nostro Zorro. Zorro, il segno suo è la zeta. Il segno di Zorro. Si trova proprio lì Andrea Zorzi, mentre l'Italia della pallavolo si trova in questo momento ad Eindhoven in Olanda, 15 pari nel primo set di questa terza tappa della World League, mentre Andrea Zorzi è in uno dei paesi in cui l'Andrea Zorzi giocatore era quasi venerato. Andrea, buongiorno, mi sbaglio? Guarda, per la precisione è una cinquantina di chilometri da Nagoya, in un onsen, che sono le sorgenti caldi termali giapponese, e la mia voce un po' strascicata è legata al fatto che oggi per mezza giornata siamo rimasti immersi nelle pozze d'acqua calda, siamo trascinati con fatica a letto, perché qui adesso è 1:30 di notte, quindi insomma è un po' tardino. Sì. In Giappone la vita è un po' complicata, un po' difficile, quindi se ne sentono le conseguenze anche con la voce. Sì, senti Andrea, intanto grazie per questa levataccia. Sbaglio nel dire che da quelle parti eri davvero amato da giocatore, lo sei tuttora? No, non sbagli, e quando in qualche modo si entra un po' nel cuore dei giapponesi lo si rimane per parecchio tempo, per tutta la vita direi. Insomma, Zorro-san in Italia fa molta impressione, anche se poi qui il suffisso san viene dato a tutte quante le persone adulte, però ti assicuro che è un piacere tornarci, perché è un posto in cui la pallavolo è molto praticata, è molto giocata, e in ogni caso mi fa piacere anche avere alcuni amici, molti amici con cui ho giocato contro e che ho conosciuto. In questi giorni poi a Nagoya in modo particolare abbiamo fatto una cosa molto divertente, molto interessante, che era partecipare ad un paio di lezioni in una scuola, parlo di ragazzi di 14-15 anni. Eh sì, perché appunto volevo dire, Andrea, tu questa settimana abbiamo avuto l'Andrea Zorzi professore, che ora racconteremo, poi una edizione particolare dell'Andrea Zorzi giocatore. Partiamo da Andrea Zorzi professore. Bravo, da quella decente almeno, perché l'altra è tutta da ridere. Quella decente è quindi un invito in una scuola, anzi in due scuole, parliamo del biennio delle superiori, quindi ragazzi di 14-15 anni, tutte le scuole giapponesi sono perfettamente organizzate, hanno all'interno dell'edificio un grande campo all'aperto in cui giocano moltissimo a baseball, sapete il baseball in Giappone è lo sport nazionale, però fanno anche atletica, poi delle palestre bellissime, perfette, mantenute in perfetto ordine, si entra sempre con le scarpe super pulite, si gira per la scuola con le ciabattine e via dicendo. Comunque l'idea era quella di fare una piccola lezione di pallavolo a queste squadre che ti assicuro sono perfettamente organizzate. Ripeto, parliamo di ragazzi di 14-15 anni, fanno esercizi super perfetti, organizzati con i tempi giusti, raccolgono i palloni senza perdere tempo, a tal punto che molte volte anche in squadre di più alto livello in Italia la situazione non è quella. La domanda era darci una mano un po' ad accrescere il livello. Come al solito gli ho fatto fare alcune cose, abbiamo fatto un po' di difesa insieme, e ti assicuro che in questo fondamentale i giapponesi sono avanti anni luce, e parlo di ragazzini giovani. Poi mi hanno chiesto, no, parlaci un po' del muro, perché sai, noi in Giappone col muro facciamo fatica, quindi gli faccio vedere un po' come saltano il muro, gli faccio un discorso più o meno generale su quella che è l'impostazione del muro, e poi però vedo che mi fanno domande molto specifiche, parlo dall'allenatore, mi dice, senti, ma voi fate read o commit? Che sono due termini di altissima tattica. Sì. Read è il muro a lettura, vuol dire guardare l'avversario prima di saltare, il commit è l'opzione, cioè fare una scelta in cui cerco di intuire la scelta dell'avversario. Dico, ma al vostro livello mi sembra un po' esagerato. E quindi posizioni complicate, però questo è rappresentativo del fatto che in Giappone qualche volta si perdono con l'importanza della tattica rispetto invece al fondamentale. Precisa all'estremo. No, ma poi un'altra cosa, esatto, interessante per l'appunto è nella mentalità tutta giapponese, nel rapporto tra professori e studenti sul campo. Esatto, allora, alla fine felicissimi, perché mi dicono, sai, eravamo un po' preoccupati perché avevamo paura che tu parlassi solamente. Invece hai fatto vedere, spiego meglio, ho fatto un paio di attacchi e un paio di schiacciate, nulla di particolare, ero quasi quei jeans corti, perché mi hanno spiegato che per loro in generale vedere, proprio imitare è fondamentale. E quindi, a parte lo collettivo, la mia schiacciata, che era evidentemente più forte da loro, anche perché la rete era bassa e qui ho sfruttato la mia altezza biecamente, però è veramente importante. Aneddoto velocissimo, Università Gakuin a Nagoya, arriva un allenatore brasiliano che era un portiere, e chiede ai suoi studenti di correre per allenarsi. Correte, dopo qualche giorno gli studenti vanno da un amico giapponese, in questo caso, e dice: guarda che quell'allenatore ci dice che dobbiamo solo correre. Allora, questo ragazzo va a parlare con il brasiliano e gli dice: guarda che è meglio se tu fai vedere che a calcio sei bravo a giocarci. Questo chiama i ragazzi in campo, fa due tiri, anche se da portiere tira fortissimo, i ragazzi vedono che questo è un grande giocatore di calcio, li fa correre ancora, ma corrono molto più convinti di prima perché hanno visto che l'allenatore è uno che a calcio sa giocare. Quindi anche questo è un aspetto, ripeto, per noi difficile da comprendere, però per questa metodologia che riguarda molto l'imitazione, cioè loro imparano guardando e imitando, è molto più importante di quanto non sia nella nostra civiltà occidentale. Hanno bisogno di crederci in termini pratici. Andrea, prima di lasciarti andare a dormire, però ci racconti Andrea Zorzi, giocatore di questa, di questi giorni giapponesi. Allora, partiamo dalle Mama-san. Le Mama-san sono delle signore che giocano a pallavolo. Questa cosa è nata quando nel 64 la nazionale femminile giapponese vinse l'oro a Tokyo e divenne veramente un caso nazionale e internazionale. A quel punto tantissime mamme iniziarono a giocare a pallavolo. Si calcola che siano circa 800.000 in Giappone, squadre anche lì super organizzate, donne da 70 anni che ancora si muovono perfettamente in campo, giocano con regole un po' diverse, che sono le regole della vecchia pallavolo, tra l'altro, quella con 9 persone in campo, con la doppia battuta, si può rifare la battuta in caso di errore, non si può fare muro invadente e altri aspetti di questo genere. Quindi c'era questa partita amichevole tra 3 squadre di Mama-san e una rappresentativa invece di atleti di pochi anni fa della nazionale femminile giapponese. Naturalmente queste hanno vinto facilmente. A un certo punto mi prendo il ghiribizzo, chiedo se posso entrare in campo con le Mama-san. Confabulazione, perché nulla in Giappone si fa senza avere un ordine preciso. Decido di mandarmi in campo, sembravo Biancaneve con le 8 nane intorno a me, perché sono già le giapponesi sono piccole, Mama-san. Entro in campo, faccio un paio di battute, arrivo in prima linea, faccio un attacco e facciamo un punto, lì festa generale, stiamo recuperando. Mi rialzano la palla, le ragazze giapponesi, quelle brave, difendono la palla, ripassano la palla, di qua io mi aspetto, dico, cioè voglio dire, tra me e la Mama-san a fianco, me la palla, no? Non me l'ha alzata la seconda volta, abbiamo perso la partita, ho avuto modo di arrabbiarmi anche lì con le Mama-san, insomma una specie di disastro, però ti assicuro uno spettacolo straordinario, perché c'era il palazzetto pieno, veramente molto divertente, e per noi in Italia, dove non ci sono esempi di sport al femminile di questo tipo, è davvero una grande occasione, una grande opportunità. Sarebbe interessante vedere se anche in Italia c'è spazio, non solo per la pallavolo ma anche per altri sport, per prendere in considerazione donne che, ripeto, hanno figli o sono già nonne. E un po' di invidia ce l'abbiamo. Andrea, grazie davvero come al solito e buonanotte. Ciao, buona giornata. Grazie davvero ad Andrea Zorzi, anche lui rimarrà con noi naturalmente quest'estate per il segno di Zorro. Tanto la pallavolo, vi aggiorno ad Eindhoven 25-21 per l'Olanda nel primo set sull'Italia, mentre per quanto riguarda il tennis 7-5 Moresmo, 3-3 nel secondo set nel confronto tra la francese e Flavia Pennetta. Però come ho detto, fino adesso ho parlato io, mi piacerebbe sentire anche voi, 800240024 su ciò che ha fatto oggi ad Assen Valentino Rossi e che tra poco ci racconta Patrizio Cantù. Ciao Patrizio. Buongiorno a tutti. Sì, è stata una bellissima giornata oggi dove finalmente Valentino ha vinto questo suo 100° Gran Premio. Centesimo Gran Premio vinto per distacco, tra l'altro, non in volata, magari in maniera meno emozionante di quanto avevamo visto l'ultima volta in Spagna, però insomma una vittoria d'imperio quasi. Beh, Valentino praticamente in Olanda ha vinto dominando per non avere dubbi, è andato subito in fuga dopo i sorpassi appunto Pedrosi e Stoner alla partenza. Lorenzo ha tentato di stare dietro a lui, è arrivato fino a un secondo e mezzo, ha recuperato qualcosa, ma poi ha visto che non ce la faceva più, giustamente ha tirato i remi in barca, come ha detto, e ha preferito arrivare secondo. È stato anche molto bravo in conferenza stampa, ha praticamente glorificato la vittoria di Valentino dicendo che in fondo oggi l'eroe era lui e che quindi evidentemente era lui che doveva tutti i riflettori. Molto staccato Casey Stoner, quarto Edwards, quinto Vermeulen, sesto Tosen, settimo De Puiné, ottavo Elias, poi Hayden, decimo Capirossi, però Stoner anche oggi con molto sofferente. Ma Stoner Sommer praticamente è arrivato dritto, è andato diretto alla clinica mobile, è arrivato dopo il traguardo, è andato nella clinica mobile perché ancora subiva dei grossi crampi allo stomaco subito dopo la premiazione, non è venuto neanche in conferenza stampa perché soffre probabilmente ancora di un qualche sintomo di gastrite o un problema che comunque lo attanaglia già da diversi weekend, ricordiamoci come era arrivato già a Barcellona, e quindi evidentemente non sappiamo se in effetti è un problema di pressione, che nel senso che ormai Stoner sente anche lui ormai una certa pressione sotto certi aspetti per non riuscire a stare insieme di nuovo alla Rossi, oppure se ci sono altri problemi legati invece a delle pure problematiche di stomaco. Sì, pressione naturalmente non sanguigna, ma pressione fisica ed emotiva. Patrizio, nelle classi minori cosa è successo? Ma nelle classi minori praticamente è successo un po' di tutto, nel senso che è stato gare abbastanza interessanti e combattute. Nella 250 ha vinto Oyama con la Honda, che ha vinto davanti allo spagnolo Barberà, nonostante si sia stato fatto tamponare da Bautista proprio negli ultimi giri. Quindi terzo ha rimontato Simoncelli. Nella 125 invece ha vinto Gadea, che ha trionfato davanti a Simon e Smith, onorando così la 200esima vittoria del team di Aspar Martinez, che ha raggiunto anche lui una quota molto elevata di vittorie in tutte le classi da quando partecipa. Per chiudere, Patrizio, un tuo ricordo, un tuo pensiero personale a Valentino Rossi, che tu hai seguito dalla pista, se non ricordo male, nelle prime vittorie. Non so se c'era a Brno quando ti imbrò la prima. No, io c'ero a Brno, cioè, e ho seguito fino quasi alla 50esima vittoria. Sì, dalla pista. Esatto, esattamente, anche perché la squadra all'epoca la gestivamo assieme alla Honda ufficiale, in Aprilia e poi con la Honda ufficiale. Ma Valentino oggi è stato molto simpatico, ha detto che praticamente ha sentito esattamente la stessa ansia, la stessa voglia di vincere che aveva quando appunto ha vinto la prima gara a Brno nel 1996. Altrettanto bravo è stato in effetti anche Lorenzo, che ha detto che in fondo ha una domanda: se lui mai raggiungerà le sue 100esime vittorie da par come Valentino. Ha detto che sì, probabilmente con le PlayStation potrebbe magari arrivarci. Grazie Patrizio, alla prossima, buon lavoro. A prossima. Grazie a Patrizio Cantù, ma rimaniamo sull'argomento perché ve lo faccio sentire adesso. Valentino Rossi, microfono Italia 1, subito dopo la vittoria numero 100. È la 40esima con la Yamaha, io... Vabbè, mi godo il momento perché 100 vittorie sono importantissime. E devo ringraziare a tanta gente, al mio team, a Jeremy e tutti i ragazzi, alla Yamaha, perché la moto fa paura. Ma anche tutti i miei amici, a Uccio, a Albi, a Carlo, a mio babbo, mia mamma, alla mia famiglia. Sicuramente stare al top per così tanto tempo è fantastico. Però speriamo di vincere un altro po', ecco. Vincere un altro po' per forza. Adesso sentiamo anche chi ha perso, cioè Jorge Lorenzo, molto sportivo oggi, chissà se solo a parole o anche nei pensieri. Sentiamolo. Presso Vale, che è un ritmo altissimo. Lui è stato molto molto forte. Hai che felicitare il suo 100 grande premio. Oggi è il dia dell'oro di lui. È una marca quasi inalcanzabile. Oggi è il dia di lui. Mario Poltronieri, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo. 100 volte allora, è il dia di lui. Tu all'inizio della trasmissione hai parlato di vittoria per distacco. Sì. Mi viene in mente il discorso di Alfredo Bindi nel Giro d'Italia. Bravo. Bisogna toglierlo per manifesta superiorità. Bravo. Se no, quindi, non si vede più niente. No, veramente è stata una cosa fuori... come il sorpasso ormai della gara scorsa, anche questa affermazione dimostra un sacco di cose interessantissime. Prima di tutto lo spirito dilettantistico nel senso più vero del termine, cioè il piacere di correre senza preoccuparsi dei guadagni successivi se si è professionisti, e la voglia di correre comunque anche se non si è sicuri di vincere. Qui lui ha corso con la pressione comunque di quello che sapeva che sarebbe stato importante vincere la prima corsa, di quello che nei giorni scorsi era stato in un certo senso sfruttato per parlare di nuovo dell'ipotesi che corresse in Formula 1 con la terza Ferrari. Quindi per tutto un insieme di considerazioni lui si è trovato anche in una condizione psicologicamente un po' più impegnativa, ha cancellato tutto dimostrando una superiorità tale che effettivamente ha stroncato tutti gli avversari. In particolare direi il discorso di Lorenzo, consideravamo Lorenzo come uno in crescita che avrebbe potuto competere e addirittura superare Valentino, oggi si sono ristabilite delle distanze siderali, anche perché, non dimentichiamoci, la Yamaha va più forte di tutte le altre, ma chi l'ha messa a punto è stata Valentino. Tanto è vero che stamattina sentivo un'intervista di Davide Bribio, che è il team manager della squadra di Valentino, che ha lasciato intendere, sia pure col sorriso che sempre lo distingue, sì, tutto sommato loro hanno un po' sfruttato della messa a punto che abbiamo fatto noi, alludendo appunto alla macchina di Lorenzo. Loro all'interno dello stesso team, ricordiamolo bene, loro al di là del muro. Loro al di là del muro, esattamente. Sì. Valutando poi anche in termini, chiamiamoli così, un pochettino più tecnici, risultati, classifiche, eccetera, bisogna dire che è stato uno sfacelo per la Honda, perché le due moto ufficiali, e cioè quella di Petroso e Dovizioso, si sono ritirate tutte e due. Quindi questo è un segnale d'allarme forte per un team, per una marca che tutto sommato era una colonna portante del discorso del motociclismo, tant'è vero che il campione Simoncelli l'anno 21 sceglierà di correre con la Honda, non per esempio con la Ducati, che al di là appunto delle condizioni di salute indiscutibilmente serie di Stoner denuncia qualche problema. Sì. Perché diciamo gli altri uomini Ducati sono molto indietro, il secondo nella classifica è arrivato a nono, certo. L'altro pilota ufficiale, c'era un'ottima gara di Caglio con una Ducati diciamo semi privata, che però purtroppo era anche settimo. Lui ha dovuto cedere, era settimo, volato per terra, si è anche rotto un dito, poveretto, anche perché in classifica ormai sembrano fatti i giochi, no, per l'altra classifica, primo, secondo e terzo, adesso Rossi 131, Lorenzo 126, Casistone 122, poi Dovizioso ne ha 65 e Pedrosa ne ha 67, e tra 7 giorni si torna in pista almeno in MotoGP a Laguna Seca in California, esattamente, circuito dove correranno solo le MotoGP appunto, e dove ci sarà una nuova occasione per misurarsi, perché le prime volte Valentino non è che amasse particolarmente quella pista, poi ha dimostrato di padroneggiarla senza nessuna difficoltà, anche quella famosa curva chiamata Cavatappi, che effettivamente è, non voglio dire terrorizzante, ma comunque vista da una persona normale sembra una cosa quasi impossibile da fare. Ecco, faccio un breve excursus nel mondo dell'auto, scusami, ma è come tante curve del mitico Nürburgring, certo. Dove ormai si corre solo col turismo, non più con la Formula 1. Quello originale. Con 72 curve. Quello originale. Non so, me ne ha detto. Non avevo dubbi, Mario. Servendo per il match a Mani Moresmo sul 5-3 nel secondo set con Flavia Pennetta, ancora una palla per chiudere l'incontro, vi terrò comunque aggiornati. Ma stavamo parlando con Mario Poltronieri di motori, di Valentino Rossi. Mario, realisticamente, quanta strada ha fatto dal punto di vista tecnico, secondo te, Valentino Rossi negli ultimi 13 anni e lungo queste 100 vittorie? A proposito di vittorie, Moresmo chiude e elimina Pennetta. Da Brno 96 ad oggi, ad Assen 2009, in cosa è migliorato Valentino Rossi? In cosa è cresciuto? Cosa ha imparato? Beh, direi che quello che mi ha impressionato è che da subito lui ha dimostrato di avere delle doti innanzitutto superiori a suo padre, che comunque era già un bravo partecipante diciamo al campionato degli italiani, però direi che Valentino ha soprattutto dimostrato fin da giovane questa fredda determinazione di volere assolutamente vincere, pur nell'ambito di un atteggiamento o di un comportamento, come vediamo, sempre sorridente, perché raramente noi abbiamo visto Valentino arrabbiato, depresso, raramente, quando gli è andata poco bene, accenna semplicemente che ha fatto un piccolo errore, quindi è convinto delle le sue doti, ma le sa anche tradurre in pratica, esprimere. Quindi è stata una progressione regolare, quale quella che si ha passando al 125, al 250, al 500 e così via. Direi che categoria dopo categoria lui è andato crescendo e adeguandosi subito al limite di prestazioni più elevate della rispettiva categoria alla quale partecipava. Quindi Valentino, io mi continuo a domandare se si può fare il paragone, che è sempre secondo me sbagliato, tra piloti di epoche diverse, il paragone con Agostini, perché effettivamente ho la sensazione che Agostini ha fatto tante gare, 122 se non sbaglio, ha vinto in tutte le categorie nel quale ha partecipato. La mia sensazione è che Agostini dimostrava di avere una superiorità notevole rispetto a degli avversari che in alcune stagioni non erano nazionali. Nel caso di Valentino forse questi avversari sono stati un po' più forti, però non vorrei che il mio amico Mino si offendesse, non dimentichiamoci che anche se il mezzo meccanico è inferiore rispetto a quanto conta il pilota nel motociclismo, le moto sono sostanzialmente diverse da quelli di meno, e Agostini sapeva mettersi a punto la moto meno quanto sa fare Valentino. Certo. Quindi diciamo che abbiamo un altro campione che si prepara comunque a restare nella memoria corrente come il più forte in assoluto. Sì, non c'è dubbio. Mario, invece, mi fa un po' specie passare da Valentino Rossi a Max Mosley, però questa è stata la settimana anche del grande accordo con coda polemiche con Mosley, che ha detto però io mi sono praticamente arreso alla volontà della foto dei costruttori, ho ridato alla Formula 1 mondiale per l'anno prossimo e queste mi insultano, adesso voglio le scuse, se no non me ne vado più. Siamo ai capricci? Sai, sono giochi di potere non da poco, perché non dimentichiamoci che in questa operazione, guarda, permettimi di riferire pochi giorni fa di un mio amico che è un progettista freelance di grandissima tradizione, che è Giorgio Valentini, e il quale mi dica la domanda esplicita, che è sempre un po' il mio pallino che mi rode in testa: ma che cosa serve alla Formula 1 all'automobile di serie? E lui ha detto: l'automobile di serie non serve a niente, serve ai progettisti per divertirsi e a quelli del circus di portare avanti il business. Purtroppo il discorso del business continua a essere, tutto sommato, che sia esplicito, che sia sommerso, la colonna portante di tutto questo discorso. Quindi noi sappiamo che il discorso FOTA nasce non tanto, non solo per quella improvvida e trampalata richiesta di ridurre le spese del 60, 70, 80% quanto chiedeva Mosley. Mi meraviglio che abbia fatto una proposta così assurda, quanto il problema di Ecclestone, che ha messo in piedi il giochino a suo tempo e che se lo vedeva sfuggire di mano. Quindi per forza ha dovuto trovare una soluzione. È chiaro comunque, prendiamo le cronache proprio delle ultime 24 ore, che la lotta non è finita, perché se Mosley, appunto, credo mollerà, ma cercando di orientare la scelta del nuovo presidente su una persona che sia più dalla sua parte che dalla parte della foto. E qui ci sarebbe un pettegolezzo da fare. Cioè? Come mai Mosley pare che voglia appoggiare Jean Todt, che tempo fa era stato invece proposto dalla Ferrari per questo ruolo, come pacificatore oppure come contrasto per continuare la politica di Mosley? Questo è il dubbio che mi tormenta oggi. Vediamo nei prossimi giorni. Sarà divertente. A discutere. Sarà divertente anche seguire questa storia nel corso dell'estate. Noi ci sentiamo, Mario, perché ci farai compagnia ovviamente per tutta l'estate. Grazie a Mario Poltronieri. Grazie Mario. Adesso è il momento di chiudere il nostro viaggio volando in Sudafrica, area di Confederation Cup. Confederation Cup, a un anno dal mondiale. È un anno dal mondiale, domani c'è la finale di Confederation Cup. Io saluto e ringrazio Stefano Piazza che ce l'ha raccontata. Ciao Stefano. Ciao, buona serata a tutti. Buona serata anche a te laggiù in Sudafrica. Reazioni innanzitutto all'eliminazione dei Bafana Bafana, quali sono stati? L'altra sera vedevamo alla televisione immagini di grande disperazione. a Johannesburg, però in fondo un'eliminazione immeritata, lasciamelo dire, contro un Brasile deludente. Beh, guarda, riguardo alle reazioni, soprattutto allo stadio, sì, si vedevano veramente facce da funerale, erano tutti convinti di poter battere il Brasile, per cui la delusione, soprattutto per come è arrivata la sconfitta, è stata cocente, decisamente molto forte per i sudafricani. Devo dirti però che già il giorno dopo la notizia che teneva banco qui era la morte di Michael Jackson, per cui tutto sommato, passata la nottata, è scivolata abbastanza via la sconfitta con il Brasile. Sconfitta è vero, inaspettata, perché la squadra di Santana è riuscita a capire come bloccare i brasiliani. Se avessero un attaccante vero, forse sarebbero riusciti a passare. E qui in effetti c'è una sorta di piccolo caso Cassano in Sudafrica per il centravanti escluso per motivi disciplinari, Benny McCarthy. Benny McCarthy che penso proprio che ai mondiali ci sarà, perché insomma qui va bene, però quando si comincia a fare sul serio io credo che sia difficile rinunciare al giocatore che ti può dare peso in attacco, perché è questo che mancava a Sudafrica l'altra sera, si è visto in maniera, si è visto occhio nudo. Senti, ma mai incuriosito di Michael Jackson invece, Sudafrica, grandi scosse? Sì, no, nel senso che la gente per la strada, nei centri commerciali, sì, ma anche sui giornali, in realtà si parlava soprattutto di questo, sembrava che fosse la notizia del giorno più che l'eliminazione di Bafana contro il Brasile. Devo dire che forse la partita contro il Brasile, ripeto, passata la nottata, ha dato loro la certezza di poter giocare un grande mondiale. Ripeto, loro partivano dalla certezza di batterlo il Brasile, quindi la delusione è stata enorme. È stata vera, sì. Però, scusami? È stata vera, è stata una delusione vera. Ah, cioè, non quella degli outsider, ma quella di quelli che ci credono. Per chiudere, Stefano, alla vigilia dell'ultimo atto, mi sembra che sia andato tutto grosso modo bene in campo e fuori, salvo sporadici episodi. L'unica incertezza, mi pare di capire, è quella sui trasporti, no? Blatter ha ricominciato a parlare di sedi fisse, cosa che ai mondiali non si vede dal 98, insomma, è dal 98 che il mondiale è itinerante e tocca tutto il paese. Qui c'è qualche pensiero in proposito? Guarda, i trasporti pubblici sono purtroppo, insomma, sono la nota dolente di questa manifestazione e di questo paese, perché sono abbastanza inesistenti. Sono un esempio: per andare da Pretoria a Polokwane sono grosso modo 5 ore di macchina, ma 10 di treno, per cui effettivamente diventa impensabile spostarsi utilizzando i mezzi pubblici. Il governo sudafricano promette che per il giugno del prossimo anno sarà tutto pronto, nuove linee ferroviarie, linee automobilistiche. Effettivamente a un anno dal mondiale la situazione da questo punto di vista non è rosea. Se per quanto riguarda tutto il resto hanno dimostrato delle buone capacità organizzative, riguardo ai trasporti effettivamente la preoccupazione c'è. Se non usi un taxi o un'auto a noleggio, è difficile arrivare a destinazione, in effetti. Difficile arrivare a destinazione. Stefano, ci sentiamo domani per la finale, per l'ultimo giorno di scuola di questa Confederation Cup. Grazie intanto a Stefano Piazza da Sudafrica. A domani, ciao. A domani. Io per chiudere vi faccio sentire invece cosa ha detto Julio Cesar, portiere del Brasile e dell'Inter, naturalmente, alla vigilia di questa partita. Io sono stufo di dire che la mia sfida non è con Buffon, non è con Casillas, e sì tra una nazionale e un'altra nazionale. Sono contento veramente per essere in finale, perché ho messo in testa da quando ho cominciato a giocare nella nazionale brasiliana che voglio vincere tutto qui, no? Voglio lasciare un segno. Ho vinto già una Coppa America, ho l'opportunità di vincere una Confederations Cup. Allora, l'anno prossimo abbiamo il mondiale. Penso che è questo il mio sogno. Domani avremo tutto il tempo per parlarne di Confederation Cup, di Under 21, di calcio mercato, di calcio in generale, dalle 17 alle 19 saremo insieme, poi ve lo ricordo dopo il GR delle 20 fino alle 20:30 e poi domani sera per la finale di Confederation Cup dalle 22 alle 23 circa. Grazie a Rita Riotti per il lavoro in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Adesso c'è il GR, buona serata a tutti. Confederation Cup a un anno dal mondiale, in collaborazione con... Nasce nuova Nissan Pixo. Facile da scegliere, facile da avere. tua da 5.790 euro con rottamazione, senza anticipo da 95 euro al mese con 5 anni di garanzia. TAEG 10,52% fino al 30 giugno. Scopri Nissan Pixo fino alle 22 da giovedì a sabato dai concessionari Nissan.